parola. Tu, io li ho ricevuti i tuoi messaggi, la, la tua foto, l'ho già vista. Ti ho mandato anche due audio, però non ti sono arrivati, come mai? Cazzo, mi rimane lì a bloccarti, ma guarda se c'hai due audio miei. Sì, li ho letti adesso, cioè li ho ascoltati adesso. Ehi, bene. Sono la stessa bucaria dell'originale. Vai, K di Rosmetro, già va bene. Ehi. Novità abbiamo dall'altra parte, capisci a me? Niente, nessun'altra comunicazione. Dall'altra parte. Eia, del pacco. Ma di quello che sto mandando indietro? Ehi, nessun'altra comunicazione? No, quando gli ho mandato la ricevuta, appunto, della spedizione, ma che tu grazie. Vabbè, K di K. Ehi, Giorgia Bia, ma ragazzi, Giorgia Bia, meno Giorgia Bia. E se no il video te l'avrebbe fatto completo, no? Vabbè, non è bello nulla, io via la radio. Ma allora mi è sembrato di sentire a Massimo. Dove è qua? No, sono in stanza io, sul volume alto. Non ho sentito niente. Al telefono? No, qua. Mi è sembrato. No, sono scivero 5. L'ho sentito poco fa io e stavo rientrando al lavoro. Poi si è già rientrato al lavaglio e si è attaccato alla radio. Beh. No, non avrei sentito, no. Non sento nessuno, io stavo con te, sto parlando. Questo sembra bene, va con il microfono, sì. Alla grande. Infatti, sto lasciando questo. Ma dimmi una cosa, Lu. La connessione che hai fatto al pace, no, non va bene in nessuna radio, in nessuna, neanche nel DAC, che c'è la connessione del come si chiama, del Galaxy, non va bene da nessuna parte, neanche con l'adattatore, perché quello è modificato, spingi un bel quel microfono, lo volevo provare sul coso, sul Galaxy, manco con l'adattatore va bene, l'adattatore è al contrario. Oggi ho compreso una cosa, ragazzi. Ma che connessione va su? Chi si bacia? L'ha trovato col microfono, perché sono burro. No, lascia fare il microfono normale. Il microfono, l'MB più 5, che abbiamo fatto le connessioni al pace, che hai fatto le connessioni al pace. Non va bene nessuna radio, manco al DAC, manco al Galaxy, nulla, niente, manco con l'adattatore va bene. Esce importante, capito? Ma non gli ho preso la connessione vale sul bacio. Bisogna invertire il filtro. In la madonna, ragazzi. E vabbè, come questi giorni te lo porto, ti porto un microfono originale a 4. Capito? E lo fai uguale al microfono originale a 4. Perché lo voglio usare con lo spingi un bel quello, l'ho preso da Gigi, ma è fortissimo quel microfono, c'è una capsula di quelle modificato all'interno, esce un bel forte. Lo voglio provare sul Galaxy, capito? Però l'ho provato pure con l'adattatore, niente da fare, nulla. Ehi, tanto ci dobbiamo vedere per prendere quella roba là. Te lo scendo, sì. Al pace intanto non lo sto usando, uso il microfono normale, intanto lo accendo, forse due luci, due cose, poi lo spengo. Lì quel microfono me lo uso col Galaxy o col DAC, capito? K di Rogero, aspetta un secondo, mi sta chiamando moglie. Allora, se questo scivolo fa prova, 1-2-1-2, prova, 1-2-1-2. Claudio, Bisese. Sì, sta giù, che mi ha chiamato mia moglie, Nara. A Claudio un altro, stavo chiamando, a farli sentire il suo microfono. Ehi, già spinge. Non lo so, di solito è sempre quella, guardo. Attento, Claudio Porto Torres. Non ce l'hai il numero di telefono? Mandalo un WhatsApp, lì da entrare che su 10. Sì, sì, no, l'ho già sentito ieri, l'ho sentito anche. Voleva rinnovarmi un po', è molto, molto rovinato. Beh, ora faccio un lavoro di pubblicatura, adesso vedo un po', perché è molto, molto rovinato. Già mi ha detto che non era messo bene. Ne avevo già parlato con lui di questo microfono. Che magari, molto, molto, tutto bucherellini, tutto cioè, riprenderlo, e vedere un po'. La scritta, vabbè, pure lì sa, ormai. Molto male, anche quel coso rosso, quel pomellino rosso, quello va fatto nero, o grigio, grazie del pomellino rosso. Ma è originale mica, è originale questo, perché io li ho guardati su internet e c'hanno questo qua, capito? Poi bello non bello, però è l'originale. Sì, vabbè. Originale no, rimane sempre originale, però è più bello grigio, o nero. Sto rosso io l'avrei subito verniciato, pure giambardo, avrò messo uno di quelli grigio e nero, quei pomellini della ZG, che è molto più bello di questo. Adesso mi mando la foto di quel barattolino che avevo intenzione anche di farmi 60 così, per vedere se gli piace verniciato così. Ma come hai fatto il mio? No, aspetta, ti mando la foto. No, quella vernice speciale, aspetta. Ah, io me l'hai fatta vedere. Sì. Non so se è bello. Prova. Provo. Anche lo fai, un questa vernice. Non è che poi puoi cambiare. Tutto carteggiato, ora. Nulla, Lui, allora sarà uscito. Che 60 è bello così, grigio, con la cromatura del piantone, è molto bello. No, non è un 60, lo Shure. Ah, è bello sì, lo Shure sì, pensavo al 60. Ce l'ho già più il 60, era già ad Antonio. No, è vero che cazzo mi sei contagiando di rincoglionismo. Che regala, adesso sono andato a fondo. Così. Se le piace così, glielo fai, no? C'è la cura? Ora prendiamo. Ci siamo noi. Ascolta, la regolazione di questo più 3 bene va così, come era prima. Ma abbordatemi se burello, ma vabbè. Ma chi io? Da me se non hai sentito parlando, boh. No, non ti sento, forse abbiamo parlato insieme. Ho detto, questo tonno più 3 così regolato va bene come era prima, al secondo puntino dopo lo 0, al primo puntino dopo lo 0. Sì, perfetto, va bene. Forte, eh? Abbastanza. Va bene. E tu? Già rientrato, tutto a posto? Sì, già rientrato, già sbocciato, già tutto, capito. Kappa, ma poco fa non eri in radio, non eri tu? No, assolutamente, sono arrivato adesso. L'ho acceso prima di farmi la doccia, appuro giù. Che sono salito in questo momento. Aspetta che saluto a Luca, che se no si offende. Ci puoi contare. Kappa, ciao Lu, vabbè, oggi non ti ho sentito niente. No. Cosa ti ha rompito le balle? Che mi piace nella memoria avete esercizi. No, io li ho tolte, me li ho mangiate, li ho messi in frigo. Almeno tutte le ho messe in frigo. Io me le ho messe nella memoria del telefono. Ora ti ho messo una scarica tra no? E tu no, vedi, Claudio invece ha fatto bene e se li ha messi in frigo. Sì, ha fatto bene. Cando basso dalle urrito. Allora, è sicuro. Ma non c'è nessuno sta giro, oggi sono tutti impegnati a fare compere, eh? Io poco ho sentito a Gianni che facciano delle prove, o prima c'avevo un 1, adesso c'è un 2, non so se stavo parlando a qualcuno che aveva lì a casa, boh. Ah boh, Gianni che obbedivo ne fende un bel di bruvi, è giusto che le faccia, che deve tenere un po' sotto controllo la situazione. No, io non ho sentito nessuno, anche perché la radio è accesa da stamattina, figurati tu. Però ormai sono abituato con il capo, bruita, ciò che accendente la manzana, sempre a volume basso. E vabbè, ci hanno le fasi mani. Io ho sollevato il volume poco fa, quando stavo parlando con te. Sì, ormai sei abituato che da buon magnato tu vai a Benichella. No, guarda, Massimiliano, non sto manco dormendo, mi traio nel divano e vi dico tranquillamente che metto il telefono silenzioso, perché ogni volta, dalle 2 alle 3, anche prima, cominciano i gong center a fracassare le balle. E allora abbasso il volume del telefono e non sento neanche i WhatsApp che mi mandate. Ma giusto un'oretta, poi lo rimetto com'era. Proprio per non disturbare Anna sì che si riposa dopo pranzo. Oppure c'è l'aria sdraiata nel divano, è uscita alle 2 oggi, capito, è arrivata alle 2 qualcosa a casa, siccome si alza presto, e allora si sdraia nel divano così assieme a me, ma quindi per non disturbare abbasso solo il volume, ma non lo spengo il telefono io. Poi guardo il WhatsApp e rispondo. Eia, fai bene, fai bene. Comunque è confermato Massimiliano, domani mi scade il contratto team. Ok, quello che avevo prima più di Acciona, perché questo è il contratto di Acciona, praticamente scade domani e non si può fare niente, assolutamente, se domani provo ad andare a lavoro a fare cosa possiamo fare. E dal giorno 16 parte in vigore quello, il contratto nuovo, intestato a me con il numero nuovo, ma dimmi tu, ma sicuramente non si può fare lasciare questo numero, ma capito? Perché questo numero, questo contratto, intestato alla società dove lavoravo io. Vabbè, tu adesso nel frattempo inizia già, se c'hai il numero nuovo inizia già a darlo, no, la gente? Ma lo sai perché non lo sto dando? Lo sai perché non lo sto dando ancora? Perché domani mattina devo andare alla Vodafone, come mi hai detto tu, devo andare alla Vodafone e vedere se posso recuperare il numero, capito? Spiegandole appunto che questo numero ce l'hanno tutti, ce l'ha l'Inps, ce l'hanno un bel di uffici pubblici, ed è una rottura di scatole, perché per gli amici non mi preoccupo, mi faccio la rubrica nuova e man mano poi me lo fai l'aria e mando il numero nuovo, non è un problema. Ma mandare il numero nuovo all'Inps, vabbè, in banca ci vado, glielo do nuovo, non è un problema, ma ce l'hanno un bel di uffici pubblici. Ma in banca non in età, e manco di dire, così non ti chiamano. No, che mi chiamano, mi devi dare di una cosa, non mi chiamano. E allora va bene, dai. Se tu domani prova a vedere cosa ne esce fuori, se riesci a tenere quel numero buono, se no già da domani, secondo cosa ti dicono, inizia a dare il numero, capito? E così si apporta. Ma quando va a cambiare il gestore, tutti quanti hanno già il numero. Lo so, ma sì, però il problema è che lo vorrei dire senza telefono, perché non posso fare niente, il contratto scade domani a mezzanotte, dopodiché non posso né ricevere né telefonare, niente, me lo annullano completamente perché è già in vigore quello nuovo, capito? Ho già firmato tutto io. Non funziona così, Claudio. Funziona che in poche parole questa scheda loro te la disattivano quando si mette in funzione l'altro numero. Come fanno a chiuderti una cosa del genere? Non ci mandi niente, cosa vuoi ti dica io? Io spero che sia così, almeno a ricevere, capito? Anche se non c'ho WhatsApp, perché sono scaduti, è scaduto anche la promozione, scade domani a mezzanotte la promozione. Avevo tutto calcolato io, capito? E quindi ho dato l'ok alla Vodafone per l'attivazione della nuova scheda. Io c'ho già tutto, mi hanno già spedito il contratto nuovo, la scheda nuova, da inserire però il 16, capito? Il giorno 16 devo inserire la scheda nuova. Funziona così, allora tu fino al giorno 16 sei coperto con questo che c'hai adesso. Quando questo qua vede che non ha più segnale, non ti fa più chiamare, non puoi più mandare WhatsApp né nulla, togli questa scheda e metti la nuova e sei già a posto. In genere in tutto il mondo funziona così, da voi da bene non lo so cos'è diverso. Massimiliano, io sono con la team, prima io, poi con l'aziendale che è questo, che mi hanno regalato quando mi sono andato in pensione, me l'hanno regalato sia al telefono e non ha detto lo tenga, quando scade il contratto ma ti vediamo. Quindi ti sto parlando di 25 anni, ok? Perciò non aggiungo mai fatti o giambi di gestione. E vabbè, comunque, dovrebbe funzionare così, va. Avanti, lui, stavo guardando Marketplace qui. vuole tornare a noi jam, salsiccia sarda, tutta appesa, a due file alla volta, a 17 al chilo. Oh! Io mai a me. Lo padrono di questa cosa, E chi è il padrone? Gio Maria a me. Gio Maria a me. Beia. Mi a me. Dai, la compagna le spine è buona. Anch'io, Lula, sto prendendo le spine è buona. No, non, non sempre, ogni tanto. No, non la prendo, guarda. Quella che siete tutto a casa qua. È buonissima, non buona. È buona sì quella. Vabbè, la riva più fammi, Lula. Un chiobo, 4 euro, ma veramente è buona. Poi, ognuno va dove vuole a comprarla. Vabbè, ma la riva più fammi io, Era più buono quella torta salata, però. Stasera mi porto la pizza. Ah, vero? Sì, roba la pizza. Vabbè, ti mando la foto. Sì, Ma mangiamo ogni avena le fare la pizza, Duci, Per una volta. Adesso non so se fare il piano con la... quella la pipa, fa la pizza proprio, oppure l'altra, la sfoglia. Ah, lo sai che l'ha fatta Ilaria una volta con la pasta sfoglia, e viene buona, solo che è una rottura di palle perché si sfoglia tutta. Vabbè, già è buono la testa. Mi Massimiliano, fatti mandare un pezzo, burro di ghiaccio e te la buono in frigo. Ma a me non mi piace la pizza, non mi via. Non ti piace, è vero che me l'hai detto, io. Ma proprio non ti piace per niente, neanche margherita, niente. No, assolutamente no. Mangio solo ed esclusivamente quelle pizzette che fa Cocco. Cristian Cocco? No, Cristian Cocco non rifate le pizzette. Non so come si chiama lui. Quello che c'era via Rosello, che adesso c'era l'Emiciclo, c'era Altani, che quelli lì. Confermate la dieta, ha detto la Gianna Massimiliano. Sono un bel buono quelli di Cocco. Sì, Altani, sì, perché lei ha lavorato Altani e te le prendeva. Dice, sono favoloso qua. Chieda? C'è da adesso, si è messo adesso Gianfranco Ah, lo conosci, Gianfranco Cocco. C'è una vita, in via Rosello c'era padre, ragazzi, me l'ha messo, ci portava la mamma, la piccolina, a mangiare la pizza lì, non la resa, E poi c'era anche lì all'emiciclo, no, a Taranto è impossibile perché l'ha aperto da poco, di fronte al bar mi sembra si sia messo, dove c'era quella, cosa c'era lì, Normalmente c'era una specie di cosa di... Cosa c'ha? Ha affittato il pezzo del Lounge Bar, dove c'era la gelateria del Lounge Bar. Dove c'era la gelateria del Lounge Bar, lo conosci l'area, Gianfranco Cocco ci chiama. 20 metri quadri ha affittato del bar. Capito, è lì attaccato al bar. Bonaretti, so, c'è il bici, eh? Ha detto sì, l'area. Sì, ce l'ha poco, ce la conosci. Io lo conoscevo, lì non era tanto prima della pandemia. KK. Ehi, va bene. No, io mi ricordo quella che c'era al monte, quella sì. Ma altrimenti non lo sapevo. KK, finito è la cinta saltizia. Solo che me ne hai mandato talmente tanta che non ci sta più in frigo. Non so quindi punirla va. Sì, a smero dopo a punirla. Allora piccola guaccone, non si può peccare guaccone, ma sì. E perché no? Tanto i gatti non ci arrivano, sono al secondo piano. Mamma mia, non so che. Sì, ma che monte ci dicevo, Ocla? Noi aveva lì i piccoli al monte, Gianfranco. Abitano a Largo Londra lì. Abita vicino alla suocera lui, capito? Ce l'aveva via Rosello, prima con la parola col padre, capito? Cazzo, ma c'è via Rosello, non aveva Monte Basso, o in Baglio? Sì, quella viuta che poi c'è solo al mercato lì, non so se, non è il monte quello, non si dice. Via Rosello, non è vero, sto confondendo io con via Montella. Quella via che esce dove c'è... Aspetta, esce, dove c'è il tabacchino, va, quindi verrà vicino a Brasse Gattoni, non so chi è Brasse Gattoni. Oh, gioco, non conosco Brasse Gattoni. Guarda, se tu mi dici le vie del centro storico, io conosco via La Marmora e via Rosello, poi non conosco più altro. Ah, se il barbiere che c'era lì in piazza Pescheria, lì di fronte al mercato, Brasse Gattoni, certo, non conosce, Sanna. No, no, ma signora, non ne ho manco sentito mai parlare. Comunque ho capito dov'era, o dov'è ancora, non lo so, perché qualche volta l'ho vista quella pizzeria passando lì. Capito? Passando lì in via Rosello, l'ho vista quella pizzeria. Però no, non l'ho mai presa la pizzetta, capito? Sì, sì, è lì. Di fronte c'è un bar. C'è sempre lì. Poi vabbè, ti ripeto, aperto a via l'emiciclo, a fianco al bar. Ha messo tipo un gazebo fuori, vai, anche per mangiare fuori. Poi vabbè, adesso ha aperto al Tanit, prima aveva aperto anche la piazzetta vicino giù al tabacchino, attaccato alla parafarmacia. Aveva aperto lì, poi lì ha chiuso. E lì ha chiuso e ha aperto al Tanit, sì, no, lo conosce lei. Lo conosce. Gianfranco Cocco gli chiama. KK. Beh, Luca, ma non era mai la pizza? Usciva a certa notte la pizza e la salsiccia. Ma solo che la penne che c'è la soffitta, Luca. Pochi non ce ne sono, no? Pochi? No. Ma da me, pochi ci sono. Non ce ne sono, a volte ci possono essere. Che bia finire la salsiccia, l'usurico. Ma stati pochi, una scarafaggio, mai. Una formica lì, niente. Proprio no. Cassa, va bene, noi non lo so cosa cuciniamo stanotte, forse facciamo due bavette al nero di seppia, allora vediamo, va, dopo la condisco, una mezza seppietta, e facciamo due bavettine al nero di seppia. Focaccia non te ne va? Ah, vabbè, se focaccia. Domani magari, ma non lo so, non lo so se ne fa. Da oggi te la dovevi preparare, ed esci da un bici, come ti ho fatto vedere io. Sì, secondo te, va, da una giornata di travaglio, Giovanni preparare, fa, non la sapete. Non so che un po' avrei di qua con qua, come, non mi dice da l'altro. Aspettate un secondo, ma chi è che sta provando qua sul canale 10? Chi c'è? Certo che ti ascolto, chi sei? Ciao Marco, buonasera, ecco Don Gianzo, beh certo che ti ascolto, sentivo la ora, prova, ti ascolto, buonasera, Claudio Sparviero da Sassari. Santiago 4, radio abbastanza buona. No, arrivi. Non so se gli altri ti sentono, penso di no. Ma a me arrivi abbastanza bene. Anche se sei con la barra, però mi arrivi. Ma figurati, nessun disturbo. Ho voluto capire chi era. Ciao, buona serata anche a te, salutoni. Vai Massimi. Se non lo sento, chi è? No, ha già chiuso, già Marco di con la barra era fermo, con Don Giorgio. E ho provato a accendere il amplificatore di antenna, va bene, ma niente da fare, a me quella zona qua è completamente buia, mamma mia, come socca. Io Luca, cosa stai combinando? Ma non vuole sul computer? Ma chi io? Tu Luca di Giamme. No, scusa, Gabo Bugnè, avevo capito Claudio. Facciamo una troppa nostra voce, vediamo se indovinate. Abbassa appena. Faccio l'usciure. Abbassa appena. Aspetta che cambio il microfono. Cazzo Giuseppe, il problema del microfono è tutta maetta. Se tu non l'abbassi, noi non capiamo bene, capito, la conformità dello stesso. E piove, se piove. Allora, vediamo con questo. E il tuo microfono è? Se non lo riconosci tu, bobo, andiamo. Ah, questo è SM20. Che ragazza. E vabbè, poi cosa ci proponi? Aglio olio col peperoncino o linguine al nero di seppia? No, c'ho cablati solo SM20, ecco Master Pro e lo sciure. Massimilia, cosa dici tu? Che senso? Dale un voto, vuole un voto, capito? Vuole un voto? 8 e mezzo. Ecco Master Pro. Sì, te l'ho detto, 8 e mezzo. Tutto 8 e mezzo. E allora, di bene voi. uno non può andare a 7, 7 e mezzo, sì, tutti 8 e mezzo. Quasi tutti, ma vabbè, vai, lasciamo 20, comunque 10. Ecco Master Pro adesso, che pagava? Guardiamo con te, sta già andato. Questo è l'Ecco Master Pro. Adesso ti cambio in SM20. Ma che questo è una lavorazione? Assolutamente no, prova a mettere SM20. SM20, che pagava? Poi non ce l'ho. Poi, no, ambisce lui. C'è una chiarezza di modulazione, SM20. No, c'è niente da fare. Dal professionale al, chiamiamoli semiprofessionali, c'è un abisso, quello dal molto più chiaro SM20. Se io non mi ascolto, mi tocca attaccare l'altra radio per ascoltarmi, o meno che non mi mandate voi la registrazione, se no. Ma sai che te la faccio io una bella registrazione? Io rimetto tutte e tre, Massimiliano. Proviamo intanto già con questo che è collegato. Vai. Allora, questo è SM20 e subito andiamo col Master Pro. Aspetta che me lo metto di fronte, questo qua. Allora, ecco qua, adesso di fronte, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso stacco e attacco il Master Pro. K. Allora, questo è il Master Pro, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Vedi un po', Massimiliano, intanto sto spostando le sue 20 per mettere il brochure. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, adesso stacco e metto le sciure. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, questo è lo sciure, prova, microfono, 1, 2, 3, come siamo. Se regoli bene, secondo me lo Shure è all'altezza dell'SM20. Però regoli, allora abbasso l'amplificazione, la metto a 5. Vedi un po', ho macchi game. Prova Massimiliano, falli sentire gli audio. Com'è a 5, ecco là. Bella modulazione, molto chiara, forte. Questo lo Shure a 5, vediamo un po', adesso lo chiudo, così a 3. C'è l'alternata. No, non lo chiuderei troppo, se non sento un modo alternata, mettilo a 5, a 4 e mezzo, troppo. 4 e mezzo? 4 e mezzo, 1, 2, 3, ancora alternata, non credo. Io? Un pochino c'è, sì. Ma forse perché c'è una mano nel capo, guarda un po'. No, mettitela in un altro posto la mano, sempre alternata, c'è poca azione, avevi alternata. Ma infatti, ora a 5. Tempo? Leggera l'accento io, ma ci vediamo. Vedi, accendi sotto. Guarda che l'ho avvitato il connettore perché non li stavo avvitando giustamente. C'è ancora lui. Ah, allora aspetta, forse com'è la posizione, può essere, vediamo un po', aspetta. Vedi un po', ancora c'è Massimiliano. No, adesso no. Allora, posizione, se lo metto sotto, fa quello, se lo metto di fronte, non lo fa. Ok, quindi questo lo Shure, così? Questo lo Shure a 5, adesso te lo abbasso, adesso è a 3, guarda un po'. Mettilo a 3 e mezzo. Allora, perché si vede poco l'affarino che regola, ecco. 3 e mezzo. Così è buona la radio, perché io nella radio ce l'avevo al massimo, giusto? No, neanche a metà. E me, prova a aumentare leggermente a metà quello della radio. Guarda a vedere se ha aumentato. Sì, è aumentato, sì, claro. Claudio Magnano esercizia. Così comunque è buona la radio, non è male. Vero? KK. Vecchiotto come microfono, anche messo male esteticamente. Adesso infatti gli ho mandato la foto a Claudio se la vuole con quella vernice particolare, così glielo faccio. Ma Claudio, qual è Claudio? Quello di Porto Torres. Ma lo vai chiamato? No. Ma Claudio, dischetto. No, lì c'è Gianni. Aspetta che mi scarico intanto il video che mi hai mandato. Guardati la foto, messo male, però esce bene come microfono. Aspetta un secondo, devo scendere giù che non mi chiude, dice mia moglie, non mi chiude la macchina. Rispondo subito. Fai. Oh, scusate che mi avevano chiamato un attimino, ci siete? Io sì, Massimiliano si è allontanato un attimo. KK. Beh, però sai che mi piace più questo anche rispetto all'SM20, con la modulazione è questo lo shooter? Questo è lo shooter, mi piace di più. Lo shooter, ricordati, fa parte della categoria Turner, non si discute, assolutamente. Io ho provato col Kenwood, ho provato addirittura il Turner più 2, cambiandoli l'impedenza, perché era 600, lì l'ho fatta a 400 con una resistenza, e ti dico che era una favola, usciva veramente molto molto bene. Sì, mi stavo guardando il video. Questo spinge, c'è anche una bella voce, sì. Vabbè, lo shooter Turner, ho venuto da qua. È di quella categoria, l'Expander 500, lo shooter, il più 3, il più 2. Sono venuto da qua, sono microfoni eccezionali, vanno molto bene. Non lo devi aumentare perché se non strappi, però regolato così, perfetto, perfetto. Non ha la chiarezza dell'SM20, l'SM20 c'è appena appena più di acuti ed è molto molto chiara. Però questa non è male, Bello, sì. Noi avevamo avuto l'Expander 500, ma adesso ne ha il microfono lì. Anch'io l'ho avuto. E se ti mando la foto del Perception, è uguale all'Expander 500, mi usci un bel rasone. È ancora più umano perché c'ha il piantone più lungo, però c'ha l'asta che si solleva, si alza, è un bel rasone. Proprio sembra il gemello dell'Expander 500. Vedete dentro l'armadio. Capito? Quindi non mi piacciono i microfoni, quelli che apprezzo molto sono il Turner più 3, l'MB più 4, più 5, quella categoria lì, dai, va benissimo. Ma io li ho avuti qua, sia l'uno che l'altro, più 5, più 4, troppo barattoloso per me, capito? Ma quello che ti ho mandato, l'hai visto che è bello? Sì, l'ho visto, l'ho visto. No, a me non me ne fa barattolosa. Guarda, io cambio radio e ti faccio sentire l'MB più 5 originale, senza originale, l'ho comprato, ho tolto la scatola e attaccato. Sull'Inuit ed è una favola, esce benissimo, non è barattolosa. Anzi, mi hanno detto che è molto molto bella, molto forte. È sempre la timbrica lui, capito? È la timbrica. Infatti, cazzo bello, guarda, l'ho rimandato, bello quest'altro, veramente, ti costa 160 euro questo che ti ho mandato adesso, apri la foto, 160 euro nuovo, spedito, costa così, se no costa 115. Lo so. Questo sicuramente è un bel microfono, però non lo gioco, non lo giaccio. Adesso non si capisce, aspetta che altro che ingrandisco la foto, allora c'è il tone, l'amplificazione, il LED che indica la trasmissione, il modulometro e poi c'è un tastino, se guardi bene sotto, sembra un tastino, forse il beep off on, forse il beep è quello, proprio sotto al microfono, se ingrandisci la foto, c'è un tastino. Sì, è il beep, sì, sicuramente è un bel microfono, però non stiamo parlando di alta professionalità, è sempre per i baracchini, capito? Non lo vai a comprare, 160 euro, cazzo un microfono, paro baracchino, sono sempre soldi buttati, no? Non ne fai niente. Capito? Non lo so, potrebbe essere interessante, ma M2, questo è il Sadelta M2. Non Sadelta, Delta M2. Dynamic Power, base microfono Cobra, CB Home, microfono, è bello. Vedi, nuovo, nuovo, $139 più $39 di spedizione, porca miseria. Cioè ti rendi conto che ti andi a 200 euro per un microfono, no, per attaccare l'off. No, io posso usare il K con un microfono del genere, ho un MC60, i baracchini hanno tutti l'MB più 5 tranne il Galaxy e il DAC che c'hanno tranne più 3, basta, boh, si è arrivato, capito, no, non ci sono discorsi da fare. Allora, 115 euro più 32 euro e 33 per la spedizione, costa, consegna stimata giovedì 4 marzo, sabato 13 aprile. che anche dovendolo comprare, per dire, no? Tu che compri e vendi, cazzo, dovendolo comprare a 115 euro, cazzo lo vendi, 160, cazzo lo compareggia. Però secondo me spinge questo microfono, porca miseria, e poi è bello, perché hanno messo il vintage con il moderno. Sì, esteticamente è molto bello, soprattutto per chi ha delle radio vintage, glielo abbina, sicuramente è molto bello, però è un prezzo troppo alto secondo me. Ho ripreso. Mi manda la Massimiliano se ci vuole un pareggio. Che ho già mandato. Che cosa? Il microfono di Elvis Presley. Esteticamente è molto bello. Però come dice Claudio, se prendi a 50 puoi vendere a 100 quello lì. Ma se prendi a 160 hai anche un minimo. Ho un minimo filettino. Solo che sai che cos'è. E se poi non funziona neanche bene, nel senso che non spinge. È quello, allora impedenza 270 ohm. Uscita di livello fino a 44 dB. Questo non lo sapremo mai. Adesso mi guardo, vedo se c'è qualche video. Cazzo. 270 ohm impedenza non è male. Non è male, però. Ho trovato un Petrus. Lafayette Petrus. Uguale al Galaxy, però senza frequenzione. Chi è che ce l'aveva Massimo Petrucci? Abbonava di Giampaolo Silvestro? No, abbonava di Giampaolo Silvestro, gli avevo dato io il Galaxy Saturnecco, e lui mi aveva dato l'S9, ti ricordi? E poi ci aveva preso anche l'Alan e il 555, che è uguale, perché pure è uguale al Saturnecco, il 555, con frequentimetro, 6 band, è preciso identico, cambia la scritta e basta. Peccato, perché non li dà? Non li dà, purtroppo non li dà, se no ce li ha tutte e due. No, ne ha uno solo qua, c'ha il 555, perché poi, vabbè, non mi fa qua spiegato, vabbè, capito. Ah, sì, sto facendo memoria, l'aveva dato a quella persona che abita al paesello, sì. Chiave, aspetta, guardando un video di questo microfono. Cos'è questa cosa? Cos'è? Chi era? No, sto guardando un video di quel microfono lì, Massimiliano. L'ho capito. Più 24, 115 più 24, la spedizione purtroppo c'è, però guarda l'altro video, non l'hai guardato Massimiliano, l'altro video ti ho mandato. No, lo sto guardando ancora questo perché mi ha colpito molto a radio, adesso lo guardo l'altro. Cazzo, c'è uno vendendo un Super Citric nuovo, lo sta vendendo 110 euro più 20 di spedizione, nuovo, manco un graffio, va. Tutte le fotografie ci sono, bello. Cazzo, 20 di spedizione, ma dove ne lo sta mandando, non è male. Ma lì ne approfittano, secondo me, questo lo manda da Albaretto, Italia, che ci sono anche stato tra l'altro ad Albaretto. Cioè, non è vero di spedizione lo manda? Da 110, microfono standard Super Citric originale perfettamente funzionante con adattatori per essere usato con apparati con Kenwood, non ha ammaccature, comprato in Inghilterra nel 92, già adattato, microfono già eccetera eccetera eccetera. Oh, me lo pongo su WhatsApp, io. Ma no, lo tolgo tale più 3, mitico tale più 3. Non è male a me. È bella la foto di WhatsApp, tale più 3. Sì, cazzo, ma ce lo fa spingere questo 756, ormai dovrebbe che muoio al mio, ecco qua. Quella è come quella che ho venduto io, mi gemella di quella che ho venduto io. Bella veramente. 756 Pro, poi c'è Pro 2, poi c'è Pro 3, bella radio quella, grande soddisfazione. Questa è Pro 3 però, mandami le foto di questo cigare che ho... forse vi può interessare. Dai, cosa ti può interessare? Che avete detto che è meglio il vostro. Secondo me il Super Citric è molto meglio. Poi ognuno giustamente. KK, aspetta, che lo devo rifare, perché sono su quel microfono là. Ma io non ho giocato il dado, ho giocato il dado. Ehi, sì, ho visto adesso, quello è il Pro 3, il mio era il Pro Short. Però molto bello, una radio veramente eccezionale, con caratteristiche di recessione da farla, molto bello, e vabbè, pazienza, prima c'era, adesso non c'è più, viva Gesù. Massimiliano, dimmi. Dai, vi ho fatto una proposta di 70, e tu mi hai rimandato la proposta di 70. A me 70 si è esagerato, ma che cos'è non è italiano? Aspetta, condividi questo oggetto, allora, WhatsApp, però se, visto che si può fare la proposta, magari lui decide, tu gliela puoi fare di 100 e lui può anche accettare, cosa ne sai? Mai comprare, a comprarlo subito, direttamente, se lui faccia le proposte, Se me lo dà, 90 spedito lo prendo. Magari la mando la proposta. Non sai che lo guardo. Cazzo, 90 spedito addirittura. Fagli 80 direttamente. Ma non è italiano. Sì. Bello però, no, qualche grafica vi accettano, non so se l'hai aperta. Ma vi fumai l'hai. Ma vi fumai l'hai. Ma vedi che non c'ha neanche il pomello suo originale, Luca. Il pomellino, quello dove ha l'amplificazione, non è che non è originale, ma di tu quell'hai. Ma certo, dal 92, comprato dal 92, lontano 92, però, cioè, guarda che si può anche restaurare una cosa. Intanto a me non è truco di questi. Ma cazzo, tu hai detto, non c'ha neanche un graffio, non so se è aperto la foto, ma... Ma c'è la portante o se di voi si discende tutto a frusci? No. Stiamo uscendo a frusci. Allora c'è una portante sotto, boh. Io non ne sento portante qua. Ma io sì però, abbiate pazienza. C'è un fischio sotto. Avanti chi vuole entrare? Ma se vediamo, la faccio una controproposta. Dai, 80 spedito, va. E poi ce la fai tu a restaurarlo bene questa cosa? 80 spedito? No, io devo fare la controproposta, non posso solo scrivergli 80 spedito. Capito? Mi scrivo 70, li devo scrivere. Mi scrivo 70, io vediamo cosa rispondo. Se tu vuoi, lo restauriamo, dai. Ma 70 gliel'avevo già mandata io, adesso che mi sono ricordato, e lui me l'ha rimandato 110, lo stesso prezzo. Se vuoi proviamo 90, mi mando una controproposta di 90, più poi c'è la spedizione. No, troppo vecchio, ne ho trovato uno migliore di questo, non è il Super Citric. cosa. Ma guarda, non c'ha mai col pomello suo originale. No, lascia perdere, lascia stare. E che microfono è? Un Super Siderick della Turner. Ma quello grigio che hai mandato a me? No, è Super Siderick, non è grigio, è nero. Ma che... Io guarda che ce lo trattendo io, ma lascia perdere. È troppo quel prezzo, poi... Guarda, te l'ho mandato, qua. Se apri la foto, te l'avvicini bene, è tutto graffiato. Allora, ce n'è un altro, quello grigio, il classico Turner, più 3, 99 euro. Più 9 di spedizione, un altro 119, l'Expander 500 119. Ma dove sei? Su eBay? L'hai visto l'Expander 500? No, non ci sono su eBay, aspetta che entro, guarda. Expander 500, 119 più 11,99 dalla Germania, ho proposta di acquisto. Aspetta che guardiamo come è messo nelle foto, così vediamo un po'. Io l'ho avuto questa Expander 500, un barragione di microfono, però è messo bene, ingrandendo la foto è messo anche bene, però non mi piace, troppo manco. Aspetta, lo invio. Ah, cazzo, l'ho già visto Massimiliano, è come quello che ho venduto io, Massimiliano, quello grigio, a quel ragazzino. Esce un bel bene, però è un barragione. No, a me non mi piace, no. Conosco, non mi piace il suo microfono. Già l'hai visto, ce l'avevo io, come l'avevo dato Cogio. È un barragione, ma ce l'avevo lì, sono dalle più tre, tutto graffiato. Non le voglio con destra io, già, ogni giorno microfono nuovo, nuovo. Ma stai scherzando, lascia perdere. Scusa, questo 13,50, cos'è che cosa? Questo è su un'asta però. Ma cos'è? Turner, microfono, piedi, tutti, Turner più 3, SSK. Ah, ripeti. FSK. S, Savona, SK. Guarda questo che bello, Massimiliano, adesso te lo giro, però dagli Stati Uniti. Cazzo, chi cazzo è burro, una buffoneggia in spedizione, 52 di spedizione dagli Stati Uniti. Ma io comunque, su eBay c'ho solo quello lì come microfono, non so come vai a fare la ricerca tu, Io c'ho scritto microfono Turner più 3. Scrivi microfono Turner, non Turner, Turner e Bu, e ti fa vedere tutti i microfoni lì. Ma così ha scritto? Io ho scritto microfono Turner e mi vado a vedere tutti, a parte i microfoni, anche i piedini, tutti i ricambi, dai. Ecco, e questo da 200 euro non l'hai visto? Oh, li sto saltando quelli, 200 euro. ZI, microfono CB Telex. Questo è uguale al mio, ok. Uguale a quello che abbiamo noi, preciso identico, 200 euro, più 9 euro di spedizione. E quando MB più 4, cos'è? Esce, vedi, l'MB più 4, hai visto? 30 euro più 17 di spedizione, questo è un po' che posso, male, che insomma, riesci a vedere. Ma vai, vai. Ma poi sto messaggiando con uno per un Saletta. Saletta, cosa ne fai Saletta? Mi serve qua. Questo è lo stesso, è nuovo, Massimiliano, 99 euro, modello grigio, 99 più 9 di spedizione. Ma tu la foto di questo che sto usando io, vista lei a 70 euro, di quello che stai usando tu? Del Turner più 3, questo è un Turner più 3, col Galaxy, vista la foto di questo Turner più 3B? No. È fiammante, cazzo, la vetrina, è nuovo, 70 euro. Tutti graffiati a 120 euro, ma non te n'ha. Ma dove ti dico? Se trovi l'amico che trova 70 euro è un conto, ma purtroppo neanche su Facebook ne trovi un Turner più 3 a 70 euro nuovo, non te lo date nessuno, capito? E quelli sono partono da 80 euro, ma non pensare che siano messi bene, però partono da 80 euro. Vabbè, io ho avuto culo, già vi dico. Questo era di un animatore, non lo usava, nuovo però mi... Nuovo Fuendino. Tra le sue scritte, cosa, la capsula luce a luce, la retina luce a luce. Nuovo, non c'è un graffio. Beh, tu fai il tuo prezzo per esempio, quanto lo daresti? Questo, meno di 100, no? Meno di 100 no, ma 100 è il suo prezzo, ma da 100 a 120, a 130, laggiù il tubo a 150 sono esagerati, dai. Però tengono questo prezzo di mercato, purtroppo. E Carugo ti dice che è così, ti dice che c'ha la capsula così, cos'è? Ma così cosa, che è originale, la capsula è Turner, è tutto Turner, capito? Come l'originale, tutte le scritte, che è nuovo. A me piace avere queste cose così belline, nuove, non ho detto. Se poi devo comprarlo a 70 euro, devo tutto smontarlo, restaurarlo e ballevarli, allora è un casino. Guarda cosa ti ho mandato io, apri la foto e scorri le foto. Ci sono tre fotografie, cazzo, chi sa chi non è bello. Io ti ho mandato il mio, non con uno. Sì, claro, se la fai con WhatsApp la foto esce male, tutta mossa. La devi fare con la fotocamera e poi mandarla con WhatsApp. Vabbè, comunque, già si vede che è nuovo nuovo. Se tu l'apri già si vede che è nuovo nuovo. Non è un problema, vedi la retina, che sei lucida. Scusa, vabbè, comunque. Ognuno, ripeto, fa il prezzo suo, però il prezzo di un Turner 100 euro è il suo prezzo, ma è una commessa, 130, 120, 150, ma non so se comparenti. Antennate, poi sono fissati, no, ma questo è il Super Sideric, ma cosa me ne affutta mai il Super Sideric che è uguale, preciso, identico, gli hanno fatto la cassa dove c'è la membrana, praticamente, la cassa dove ci sta la e a fanculo. Comunque, in alto l'hanno fatta cromata anziché tutta nera, basta, è uguale un microfono, io te li apro e tu mi dici dove trovi la differenza, i circuiti sono uguali, la capsula è uguale. Ma tu hai super sideric lì perché? Per aprirlo e farmi vedere che sono uguali? No, ma l'ho già fatto, se ti fidi di me, l'ho già fatto, io super sideric ce l'avevo, e l'avevo venduto a Gavino Joker, capito, di Paolo Torres. Quindi, tranquillo, se te lo sto dicendo io, non ti sto raccontando male, sono uguali lui, le capsule sono uguali, la stessa impedenza, il circuito è uguale, l'hanno voluto sponsorizzare, chiamarlo Super Sideric, ok, e gli hanno fatto la sede dove c'è la capsula cromata, boh, basta, non ciamba nuda. Io, vabbè, ho sentito da Tonino, secondo me è superiore, poi giustamente ognuno si deve vantare la propria roba, no? È normale. Ma tu puoi sentire quello che ti piace, Tonino non c'ha l'esperienza che c'ho io, né con il microfono né con la radio, io ti sto dicendo che è così, e te lo scrivo anche, capito? Vai tranquillo, la voce di Tonino è può darsi sia anche diversa dalla mia, però tieni un conto, dille quanto lo tiene lui a quanto ce l'ho io. Se tu guardi il Turner più 3, ci sono 1, 2, 3, 4 e 5 puntini. Il primo puntino è lo 0, io ce l'ho in mezzo tra lo 0, tra lo 0 e il primo puntino, ok? Tra lo 0 e il primo puntino. Quindi, di cosa siamo qua vedendo? Io mi sono ascoltato, ce n'è, ne avanza di modulazione. Cazzo, non te lo posso muovere così, no? Così è il primo puntino, te. Così è il primo puntino, te lo devo tenere così per farti sordo. Così va ancora meglio invece, vedi? Così va ancora meglio, cioè oltre il primo puntino va ancora meglio, cioè a uno e mezzo. Sì, lo sai che quando se lo abbassi ti ascolto più gracchiante invece, se vuoi ti faccio anche la registrazione, mentre così è più limpida, più chiara. E togli il filtro che c'hai giù in basso, chiamato NB, a vedere se mi ascolti bene. Non ne ho filtri, non ne ho, ho già fatto le prove. Ti ascolto molto meglio, è così che non basso, perché basso è gracchiante. Così me l'hanno fatto abbassare, dice che era troppo forte. Cazzo, se entra Roberto Quadrato me lo vado a abbassare. Ma io ce l'ho a uno, mi. Prima era meno di uno, prima era meno del primo puntino. Ok? Adesso ce l'ho al primo puntino, appena appena più su del primo puntino, ma un pelino, diciamo che al primo puntino. Cazzo, ce n'è di amplificazione, cosa vuoi? Ancora di più. Ma ci miglia, cazzo, questa era la regolazione che mi avevate fatto abbassare, se no io lo tengo sempre neanche a uno, neanche a uno, perché il primo puntino che c'è vicino alla V, che c'è scritto volume, quello è lo zero, ok? E il primo puntino è a uno, perché questo lavora da 1 a 5. Ascolta, lui, sai a giusto una mia curiosità. Portala a due. Così a due, guarda, così a due. Ed è troppo forte perché io mi sento in cuffia ed è una cosa allucinante. Non so, a voi. Ma forte voglio dire,